Ed eccoci qui, lunedì 26 luglio 2021, 18 e 11 minuti primi, Radio Pirata 38, bentornate e bentornati anche voi per questo nuovo lunedì insieme, dalle 18 alle 21 andremo a trascorrere 3 orette andando a trattare differenti temi, però senza andare a svelarli tutti. Vi andiamo solo a ricordare per il momento, per chi avesse Twitter, Radio Pirata 38, Facebook invece Cronaca Imborgata, e ci potete scrivere al 351-0913-390 e continuiamo a sentire un po' di Aphex Twin con Ventolin. allora, non abbiamo voluto andare a interrompere le note di Girl Boy Song di Aphex Twin perché ci piaceva tanto, quindi abbiamo pensato di lasciarla trascorrere tutta, ma ritorniamo di nuovo in voce alle 18:18. Siamo sempre su Radio Pirata 38, per chi si fosse sintonizzata e sintonizzato ora, chi torna dal lavoro, chi c'è sta ancora al lavoro, chi sta a casa, chi se sta per fare l'aperitivo di lunedì, anche se è il fine settimana è appena terminato. Qua giustamente dice chi ce l'ha il lavoro, chi non ce l'ha. Sa, prova. Eccolo. E allora, questa è una voce nuova in questa radio, ma noi non andiamo a svelare niente per il momento, stiamo facendo un po' di giri intorno ai cavi per evitare di ingrovigliarci tutti. Però niente, allora, di che cosa andremo a parlare quest'oggi? Faremo una piccola classica carrellata su gossip spettaculare, il personale politico. Guarda, io sono venuto solo per questo, intanto. Ecco. E noi ti ringraziamo per essere venuto qui al Sesto Ponte, qui a Laurentino 38. Poi, appunto, andremo a presentare insieme a te, caro mio, Momo Edizioni. Tu sei uno dei fautori, no? Per cui questa nuova casa editrice indipendente, sottolineiamo, è nata da ormai un anno e due? Da due anni, ok, perfetto, da circa due anni. Quindi andremo a farci una bella chiacchierata per andare a presentarvi un po' quello che fa e che ha fatto Momo Edizioni dalla sua nascita fino ad oggi. Qui abbiamo un bellissimo, come lo vogliamo chiamare questo? È una sorta di rivistina, un libro gioco, neanche, forse una specie di settimana enigmistica, ispirata alla settimana enigmistica, ma del tutto diversa. È un'edizione, noi abbiamo chiamata È tempo di cazzeggio. Ecco, quindi... giustissimo, quindi siccome siamo rimasti nel gossip nel tempo di cazzeggio, sicuramente invitiamo tutte e tutti ad acquistarla, questa bellissima mini rivista È tempo di cazzeggio, fatta proprio adesso, agosto 21, al solo costo di 3 euro. Però andremo a parlarne poi magari più approfonditamente dopo. Proseguiremo quindi, dopodiché, parlando, appunto, continueremo a parlare di nuovo e poi andremo ad affrontare il tema notato, perché ci avviciniamo alle classiche giornate in cui, appunto, si andranno a svolgere iniziative varie e poi vedremo quali e in caso quando. E poi continueremo a parlare della gira zapatista, tema che abbiamo trattato in ciascuna delle trasmissioni che da ormai 5 lunedì, se non sbaglio, portiamo avanti, e vediamo se riusciamo a fare anche qualche piccolo aggiornamento qui sul quartiere qualora ce ne fosse qualcuno di più, diciamo così, nuovo. Quindi vi invitiamo a dirci la vostra al 351-09-13-390. Per adesso vi lasciamo a un altro po' di musica, torniamo in voce tra qualche minuto. Make it clear, for I am not used to. time I close my eyes, I see you. No way to hide it, no way to say it. It's in the smallest thing that you do. I can't believe my mind is playing. My mind is playing with tricks like this. Can you feel my eyes astraying? I need a heat. Qua 18 e 28 Radio Pirata 38 faceva pure lì, ma manco volevamo fa apposta. Però ritorniamo qui in voce dopo un po' di musica, oggi un pochino di relax, abbiamo cominciato musichina rilassata. Sì, sì, sì. Per cominciare proprio a carburare. Cioè, perché... proprio musichetta per dormire questa. Musichetta per dormire. A mia figlia. Quando ci avrebbe mai dormito, che ti metti un po' di drum and bass. Comunque, allora, niente, allora andiamo a iniziare questa parte di speculazione. Qui scorrendo nell'etere, nella web, scusate, abbiamo trovato una notizia veramente sbalorditiva. Possibile non commentare? Ma no, vuoi leggere tu allora, il titolo di questo nuovo articolo? Mario Balotelli sbotta, inizia così, cioè sbotta proprio. La madre di mio figlio mi usa come un bancomat. Lei replica e lo accusa di... Vediamo di che cosa lo accusa. Lei replica... Niente, non si sa. Non si sa le che repliche. Lei dice, voglio replicare. E non sapeva forse che dire. Io penserei giusto questo. Cioè, nel senso che anche io utilizzerei Mario Balotelli come se fosse il mio bancomat, se potessi. Non so se lo faresti anche tu in caso. Ma sì, ma penso, alla fine che ci devi fare con Balotelli, se non gli vuoi chiedere almeno i soldi. Balotelli, mannaggia, due sordine, e quindi quasi pensavo. Ricordiamo che Balotelli, quando era? Un'estate fa, due estate fa, ha pagato uno per buttarsi con la moto dentro l'acqua, no? Una roba del genere. Quindi alla fine, insomma, non penso che sia per lui un problema, magari chiedergli qualche centinaio di migliaia di euro, così, da una cosa e l'altra. Corretto, magari noi l'avremmo fatto ugualmente, però senza pagare nessuno. Poi ci hanno messo sta foto, che è tipo lui, non lo so. Penso stia cagando mentre ha fatto sta foto sulla tazza del cesso, praticamente. Se stava a sforzare. E comunque, insomma, vediamo un attimo se vi piace l'idea. Lanciamo l'hashtag. Qua ci suggeriva il nostro maestro DJ. Com'era l'hashtag? Mario ci compri. Hashtag Mario ci compri. E vediamo un attimino se riusciamo. Potete anche mandare un messaggio, no? Giusto? Certo, vi mandate un messaggio al 351-09-13390 sul nostro Twitter Radio Pirata 38, oppure lo potete anche scrivere su Facebook a Cronaca Imborgata. E cos'è? Dai, lanciamo sta hashtag. Lanciamo sta hashtag Mario ci compri, e vediamo quello che ci comprerà. E se ci comprerà qualcosa. Thank you. E allora, ritorniamo in voce alle 18.33. Vi dobbiamo dare una spiacevole e sgradevole notizia, soprattutto per tutte le persone fans di Loredana Bertè. Perché? Perché Loredana Bertè ci va a informare riguardo al fatto che ha dovuto annullare il suo tour estivo. Per tempo a te ti suona la sveglia, so che mi suona. A me mi sono a WhatsApp e vabbè, noi rispondiamo, andiamo ad aprire al compagno che ci ha raggiunto. Ora apriremo anche a lui, che verrà qui a dirci anche la sua rispetto agli altri temi. Allora, però niente, stiamo parlando di Loredana Bertè. Intanto ci siamo tutti preoccupati, diciamo tutti i fan di Loredana si sono preoccupati, a quanto pare sono preoccupati tantissimo, svariato, perché a quanto pare sono uscite queste notizie che davano lei insomma ricoverata in maniera grave. Lei ha subito una pesante campagna sul defango, di maldicenza, su direi, defango. Non se fa. E poi lei i fanghi si fa spesso, quindi insomma è abituato. Certo. Però dice, ha voluto smentire. No, dice smentisco. Sono in convalescenza, ma. Ha lasciato il ma così però, perché noi stavamo tentando di capire su gossip.it come proseguisse questo articolo. Sono come scienza masticazzi. Quello che c'è ora di masticazzi, poi tornerò e continuerò a cantare. Però fondamentalmente lei dice, cari fan, ci sono rimasta male quanto voi. Non vi preoccupate, perché tanto io torno, ho annullato solo una data, ma torno subito, quindi... Ah, torno subito, vabbè, allora noi siamo qui ad aspettarti, cara Loredana. E tanti però in solidarietà lanciamo questa cosa, che chi vuole essere solidale con Loredana può farsi i capelli blu. Mi faccio i capelli blu, dagli Loredana capelli per chi ce li ha, se no a qualsiasi altra parte del corpo colorabile va bene. Ascella sì, ascella no. No, poi diventi interista, però vabbè. E comunque le 18:35 di questo lunedì 26 di luglio del 2021 accogliamo il nostro compagno Maurizio, che è tornato qui tra noi dall'altra parte di Roma, perché Maurizio viene da lontano, sei un migrante dalla barriera di Roma Nord, sei come se fossi un migrante, diciamo, dalla barriera di Roma Nord. Ma come, che tempo c'era a Roma Nord? C'era più era a Roma Nord. E qua c'è il sole, non... qua a Roma Sud verso il mare invece. Cioè, mo mettiamo il Sud Pass qua, eh? Bisogna, come il Green Pass, il sudista parte. Lo chiederemo. Ora ci stiamo organizzando anche per questo. Comunque, nel frattempo c'è un video che è partito là, non si capisce. C'è una ragazza che parla. È muto. Ah, è muto, ok. Vogliamo doppiare? No. Sarà lei che è muta? Non lo so. Vediamo, possiamo doppiare. Va bene. Dai, allora, tanto per dire. Ci scrivete, ci dite la vostra, se volete lasciamo un hashtag, devo fare un corso di dizione. Ok, allora solidarietà con Loredana, abbiamo detto che vuole può colorarsi di blu qualsiasi parte del corpo, mentre per la lezione, la notizia di prima, dicevamo chiediamo a Balotelli cosa chiedereste a Balotelli, questa era quella che avevamo lanciato prima. E quindi prima di passare alla prossima notizia, mi sa che c'è un intervallo musicale. C'è un intervallo musicale. Chi stiamo andando a far suonare, maestro? Stiamo ascoltando gli 8-bit Rockers. Ok, allora sulle note degli 8-bit Rockers ci sentiamo tra poco e ritorniamo in voce, ragazzi e ragazze. We'll be right back. 18:43 Radio Pirata 38. Se ci volete scrivere 351-09-13-390. Stavamo continuando con la parte dei gossip spettaculares. E abbiamo, raga, davvero una notizia che ci turba. Gravissima. Ci gravissima. Turba veramente nel profondo, perché siamo molto preoccupati e preoccupate qui. Ci preoccupiamo per Luca Dorigo. Tacci sua, dice Luca Dorigo, tacci sua si chiama. È l'alias. E chi è Luca Dorigo? Questo articolo ci informa essere l'ex tronista di Uomini e Donne, che poverino con le discoteche chiuse non può fare il DJ. E che faramo? Poi, ovviamente tutti noi già lo conoscevamo, no? Questo Luca Dorigo, che ha avuto, come dire, ha dovuto svelare addirittura a Fanpage. Quindi ci sono stati dei giornali che si sono interessati alla sua condizione, poverino, di non poter più fare il DJ. Cioè, lui dice, racconta in questa intervista inedita, questa intervista, diciamo, proprio che ha fatto scalpore, racconta che è passato dal fare 20 serate in discoteca al mese a farne circa 5 ed essere pagato la metà, poverino, la metà del compenso. In più non lo invitano, perché sennò, se sanno che c'è l'ospite, poi le discoteche si accalcano le persone e poi vengono i controlli. Quindi lui, poverino, per il Covid si è ritrovato così. Sono venuti i controlli alla discoteca. Guarda, lo coccolerei, guarda, veramente lo prenderei in braccio, così, tipo la mamma di Dubbo, favorezzi, oh, cioè, fa così, no? Poi incontrarci un culo e gli famo fare un bel culo qui, Ricchi, e a questo punto direi, ma perché non facciamo noi una bella festa dove invitare lui come ospite? Invitiamolo, gliela facciamo noi, no? La festa, se viene qua Luca Dorigo, vieni qui che ti vieni facciamo una bella fa festa, fate fa la festa. Addirittura da che dice praticamente non riesco neanche più a lavorare gratis. Allora, io li possiamo suggerire a far volontario. Ma forse pure a qualche ristorante che mo cercano, mi sembra, no? Sì, certo, no, perché giustamente con tutta la popolazione che c'ha lavoro, che trova lavoro, che c'ha davvero lavoro precario quando ce l'ha, perché poi metteci tutta la parte che di gente che nemmeno ce l'ha. Però attenzione, attenzione, perché stiamo trascurando una cosa fondamentale di questo gossip, ovvero lui racconta che lavoro sta facendo adesso, che lavoretto sta facendo per arrotondare. Come arrotonda? Facendo come arrotonda? Il parchettista. Parchettista. Quindi l'hanno messo sotto proprio. Io mi immagino tipo lo zio e dice, e il padre lo chiama lo zio e dice: pia sto scemo che su scemo non sa fa un cazzo, pialo con te, capito? E se hai preso questo e gli faccio fare. E lì e sarà tipo un accollo po' zio che se porta lui questo. Ma c'ha sto cugione. Tutto palestrato, questa là non riesce manca a mettere. Ma qual è il maschio? Qual è la femmina? Come si incastra qua? Così. E dice quando entra nelle case dei signori che lo riconoscono. Possiamo fare una foto? Lì sì, facciamo la foto. Beh, cioè, veramente poverino, raga. Il dramma di uno che ha visto le stelle e adesso si ritrova così, come noi. Come noi. Benvenuto. Benvenuto, caro Luca. E come dire, mille di questi giorni anche a te, così ne hai fatti altrettanti invece a Mazzetta, allora fattene un po' solidarietà a noi. Zio, solidarietà al zio di Luca Dorigo, che poraccio se deve accollare questo un giro. Vabbè, è una pratica da poco. Mi scusaste signora, c'ho il guaglione nuovo qua e non sa fare un cazzo. Ha fatto il parquet al contrario. Ha messo il parquet sul muro, signor. Sì. Vabbè, allora dopo la chicca del parquet sul muro di Luca Dorigo, noi alle 18.47 andiamo a tornare su una parte di blocco musicale. Se volete scriverci, ricordatevi, siamo qui ad ascoltare la vostra, anche le vostre richieste musicali. 351-09-13-390, Radio Pirata 38 su Twitter, invece su Facebook, Cronaca Imborgata, dagli DJ. 18:57, Radio Pirata 38, vi aspettiamo al 351-09-13-390 per mandarci i messaggi WhatsApp qui in diretta, e andiamo a parlare, andando ad abbassare un pochino, DJ, per favore, la musica in cuffia, grazie, e andiamo a parlare di una notizia che... diamo degli aggiornamenti. Diamo degli aggiornamenti rispetto alla notizia di cui già avevamo cominciato a parlare un paio di trasmissioni fa, relativamente all'attore libero De Rienzo, perché appunto sono state, come eravamo stati già informati dai media, trovate le tracce di eroina, e si sta facendo una lotta alla criminalizzazione, no, della causa della morte di questo attore, che poi tante volte anche ha attraversato, diciamo così, e accompagnato diversi momenti di lotta, anche rivendicandosi di quando è stato premiato in differenti occasioni. Ma a parte questo, che cosa vogliamo dire? Beh, la volta scorsa eravamo rimasti, cioè avevamo saputo che avevano ritrovato Libero De Rienzo morto in casa sua, e non sapevamo quali erano le cause. Sapevamo che addirittura la Procura di Roma aveva aperto un'inchiesta, e oggi sappiamo qual è stato il motivo della morte: abuso di eroina. E la cosa che noi c'era, insomma, ci è saltata subito agli occhi è come l'ipocrisia del mainstream abbia immediatamente additato Libero De Rienzo come, appunto, come se se la fosse cercata, o comunque in qualche modo spiattellando, insomma, giudizi e pregiudizi sui giornali. Quindi vorremmo dire anche due cose su questo, visto che l'uso delle droghe è ampiamente diffuso, ampiamente abusato, anche non solo di eroina ma anche di altre sostanze come la cocaina o altre, cioè l'alcol. Sì, poi io volevo segnalare anche che, diciamo, l'atteggiamento che secondo me va rilevato rispetto all'uso che fanno i media di questa roba. Cioè, il punto è molto semplice: un ragazzo muore perché purtroppo la causa è stata il fatto che appunto ha abusato di questa sostanza. È una cosa molto semplice, e il fatto che lui ne facesse uso so cazzi suoi, al di là che questo fosse un personaggio pubblico. Ma l'atteggiamento più grave è questo, diciamo, questa necrofilia da parte dei media, che continuano a, come dire, a rivangare, a voler sapere il minimo dettaglio, la minima cosa, e di tirare fuori all'infinito questa, cioè, dopo che uno è morto si spera che quantomeno, insomma, no, non basta la champagne, no, ma soprattutto l'ipocrisia, cioè invece di domandarsi quali siano le vere cause che comunque hanno portato all'abuso di una sostanza, cioè questo è un dato de facto che questa persona è morta per abuso di sostanze, invece di domandarsi quali siano le cause reali, i problemi reali che hanno portato poi a questo, semplicemente si pongono come dei perbenisti che ovviamente, oddio, la droga, ecco perché è morto. Qualcuno avrà detto, ecco, un po' anche perché era un po' di sinistra, probabilmente aveva certe idee strane. Sì, diciamo, c'è stata poi anche la classica corsa alla rivendicazione del personaggio all'inizio, quando è uscita questa cosa. Esatto, quando ancora non era pubblico il motivo per cui... Esatto, tutti a dire che era il mio amico loro, e eventi che sono spuntati per cercare anche lì, appunto, di in qualche modo, come dire, monetizzare o comunque, no? E, insomma, siamo di fronte a un atteggiamento che purtroppo vediamo sempre da parte dei media nei confronti delle persone, e in questo caso è una persona, diciamo, pubblica, molto conosciuta, e quindi forse è più visibile come cosa. Sì, è anche secondo me uno stereotipo, cioè, visto che lo stereotipo dell'uso delle sostanze, soprattutto del mondo dello spettacolo, è ampiamente diffuso, ovviamente una morte del genere, quando tu sbatti in prima pagina come dei mostri delle persone normali che spacciano magari delle droghe leggere, piuttosto che, senza andare a richiamare casi del passato come Stefano Cucchi, in cui appunto le forze dell'ordine si sono sentite autorizzate a pistarlo di botte fino a ucciderlo solo perché era ritenuto un tossico, e quindi anche allontanare questi stereotipi, perché ovviamente dall'alto la popolazione che fa uso di droghe viene trattata e stereotipata in questo modo. Quindi adesso che il danno ce l'hanno in casa e che ovviamente loro lì più o meno tutti fanno uso di droghe, ovviamente non si possono autotrattare come trattano noi comuni mortali, e quindi ecco anche la corsa all'allontanamento dalla comunità, diciamo tra virgolette, se vogliamo definire la comunità del mondo dello spettacolo. È così. Poi io noto anche che c'è una certa distanza, no, da quello che succede poi nella società e quindi anche nel mondo dello spettacolo e come lo vogliono raccontare in maniera bigotta e distaccata. Questa è l'ipocrisia, no? Infatti. Questa è l'ipocrisia incredibile. Purtroppo tutto mi fa pensare che abbiamo sempre più bisogno di strumenti di comunicazione distaccati da questi qua, indipendenti. Purtroppo non siamo così forti adesso per imporci su quel piano della comunicazione, però non possiamo neanche consegnare tutto a dei post social sui social fatti individualmente. Dobbiamo ragionare, forse potrebbe essere questo lo spunto su come di trovare il modo di comunicare anche su queste cose qua in maniera appunto non ipocrita, indipendente, perché sennò qua si capisce in questo paese bigotto dove praticamente non si può fare niente, però puoi essere tranquillamente alcolizzato e morire e di alcol, perché questo è socialmente accettato. Sì, l'alcol va bene, e tutto il resto no. Tutto il resto no. Poi detta così sembra ancora più banale, però fondamentalmente ti ci portano a essere banale, perché devi fare così, è quello che succede quotidianamente. La banalità del male, direi. Eh sì, allora, su questo interessante spunto, grazie per aver abbraccio commentato questa notizia. Non ci siamo organizzati, veramente a noi ci piace di più così, a noi ci piace lo spontaneismo, e quindi lei, diciamo, armato a cazzo dei cani un po' come Boris. E allora, con queste chicche magnifiche, siamo sempre su Radio Pirata 38, siamo qui ad aspettare i vostri messaggi, i vostri tweet, i vostri messaggi anche su Facebook 351 09 13390, Radio Pirata 38 su Twitter, invece Facebook Cronaca in Borgata 1905. Appena scoccate, ritorniamo in musica, però andiamo ad informarvi che dovete rimanere sintonizzate e sintonizzate, perché dopo il blocco musicale andremo a cominciare a presentare, a parlare di Momo Edizioni. I don't know. I am gonna follow you. E allora alle 19.10, sempre su Radio Pirata 38, stiamo per andare a fare la presentazione di Momo Edizioni, però c'è una notizia insomma che in queste ore poi insomma colpisce un pochino tutte e tutte. Io sono nato in Sardegna, quindi magari a me mi colpisce un po' di più, però insomma non solo per questo ovviamente. Ma c'è l'accento sardo. C'è l'accento sardo, si sente, è sardo di Roma. E no, che succede? In Sardegna da 60 ore ci sono incendi in tutto l'Oristanese e si vedono veramente immagini devastanti di animali morti per le strade e quant'altro. Andiamo a leggere sul Fatto Quotidiano che la causa sembrerebbe un incidente automobilistico in cui appunto l'autovettura ha preso fuoco, e da lì sembrerebbe che l'incendio si sia propagato, almeno questo è come lo raccontano loro. Sappiamo che il tema degli incendi non solo in Sardegna è un tema che comunque sono anni che comunque purtroppo si va a riproporre ogni estate. Differenti le motivazioni dal nostro punto di vista, come diciamo qui adesso durante il blocco musicale, può essere una cicca di sigaretta, possono essere persone che la piccano apposta perché magari, come si diceva in tempo, la guardia forestale ci stanno tagliando i posti di lavoro, quindi appicchiamo incendi così ci riassumono, e cose varie. Possono essere appunto differenti le motivazioni, però quello che sta succedendo è veramente un qualcosa di pesante. Ci sono dei granatieri in azione che provengono anche da altri paesi quali Francia e Grecia. E che vogliamo dire rispetto a questo? Beh, potrebbe essere questa una bella intro per l'argomento che ci abbiamo a seguire, che parla appunto di comunicazione, perché questo tema si può affrontare secondo me in due modi altrettanto validi. E uno è quello che è più generale e classico, e cioè quali sono le motivazioni degli incendi, perché sappiamo che ormai che dalla stragrande maggioranza dei casi le motivazioni sono di origine dolosa. Le motivazioni a monte ovviamente sono di ordine economico, sostanzialmente da rendere edificabile dei terreni, ma anche dal bruciare aree naturali per farsi dare i soldi dalla comunità europea per rimboscare quella stessa area che hai bruciato, fino a prendere appunto le regioni, le sovvenzioni e via dicendo. Questo è il campo, il motivo principale, la causa principale per cui avvengono gli incendi. Dopodiché, se prendiamo anche per vero quello che dice la regione, cioè che la causa sia stata un incidente stradale in cui è andata a fuoco una macchina, tralasciando il fatto che sia avvenuto, che quindi vuol dire che si è preso fuoco il bosco, vuol dire che non ci sta manutenzione stradale, non c'è manutenzione del verde, avete fatto una strada, non ci sono interventi strutturali per far sì che appunto se avvenga un incidente e ci sta la possibilità che la macchina bruci, no che poi divampi un incendio che dura 60 ore e distrugge praticamente mezza regione. E tralasciando anche questo, c'è i fattori dei cambiamenti climatici che ormai rendono impraticabile anche gestire un incendio doloso. Questo è l'altro grande campo che si può, cioè se fosse anche vero che la causa è quella e non di origine dolosa, il problema allora è ancora più grave, perché è anche lo stesso motivo per cui negli anni le estati scorse abbiamo visto bruciare la California o l'Australia. Lì gli incendi di origine dolosa sono sfuggiti al controllo, perché ormai le condizioni climatiche in poco tempo possono far divampare incendi di questo tipo. Tuttora gli Stati Uniti sono in fiamme. L'altro giorno le immagini riportavano che a New York c'è questa nebbia, ma il fuoco è dall'altra parte del continente, per far capire quanto è. Cioè, quanto è l'impatto? È l'impattante. Quindi purtroppo quello che diceva Maurizio è proprio il centro della questione. Al di là della dolosità, dell'infamità di tutto ciò, di chi le compie questi gesti, che probabilmente non so, cioè, non c'è cura che tenga, non c'è gula che tenga, però questa è la gulag che tenga. Però c'è non basta, però c'è il problema del cambiamento climatico. Noi abbiamo fatto un libro, vabbè, poi dopo parleremo di Momo, ma un libro ultimamente a Planet Twin, scritto da questi quattro studiosi americani che individuano a partire dall'America il problema dell'impatto che ha sull'ambiente mondiale, diciamo, E purtroppo dicono che bisogna, non dico abituarsi, ma questa roba sarà sempre più frequente, come sarà più frequente il fenomeno della migrazione, sarà più di massa, come saranno frequenti tutto ciò che ne consegue, dagli alluvioni alle frane, passando per una serie di emergenze che si susseguono una dopo l'altra. È l'inizio, diciamo, di questa piccola apocalisse. Il problema è che io credo bisogna cominciare a dire, cioè, proprio perché non ci si può rassegnare all'apocalisse in questo modo, perché siamo in tempo ancora, per assurdo, per fare qualcosa. E però il problema è come farlo, che è un'altra questione. Grande tema questo qua. Ulteriore cosa, ritornando qui sulla Sardegna, brevi calcoli rispetto agli ettari che, di bosco e boscaglia che sono andati bruciati, dicono che ci vorranno 15 anni almeno per poter riportare tutto quanto a norma, tra virgolette. Tra le altre cose, no, leggevo che è bruciato un olivastro millenario, cioè nel senso, quelle sono cose che comunque non è che le recupero in 15 anni, cioè è andata, come dico, cioè sono quelle banalità, una cosa che te l'hai sempre vista là e non gli hai dato valore perché erano duzzeppi, poi mo piagni, quindi non lo so, non è che se può tornare indietro, quindi ragioniamo appunto su che se può fare ancora. E allora dai, allora 19:16, facciamo così, ci prendiamo due minuti. Sì, perché è presa un po' a male adesso. Il blocco cosa. Musicale. Un attimino per riprenderci. Questa del coso millenario. Allora, proprio, allora ma... diciamo una cosa invece bella, una cosa bella sempre di questo tema, prima di andare sul blocco musicale, che il popolo dei sardi e delle sarde è un popolo altamente solidale, altamente accogliente, quindi quello che si sta creando, come quando già sono successe delle problematiche magari con i pastori, non so, muore un gregge, allora tanti pastori da tutta l'isola, ma anche non solo, anche da tutta Italia, a volte magari chi una pecora ciascuno, fa sì che il pastore che ha avuto appunto questo danno mastodontico perché il suo lavoro, possa riavere di nuovo un gregge da poter far nuovamente pascolare, quindi possa rilavorare. Oppure stavo dicendo prima che una persona ha messo a disposizione un suo tir per portare le balle di fieno che eventualmente verranno donate, per andare quindi ad aiutare e supportare ulteriormente le persone che poi hanno subito, insomma, in prima persona maggiormente questa problematica. E quindi questo secondo me è la grande solidarietà che il popolo sardo, insomma, da sempre ha avuto. E rilasciamo nella positività. Beh, a voglia, dagli quella solidarietà sarda, ma io spero più dalla loro incazzosità, visto che ci sono 1500 sfollati, 20.000 ettari distrutti di aziende agricole, attività lavorative, patrimoni naturalistici e ambientali, quindi spero anche nella rivoltosità del popolo sardo. Quella è la speranza, però insomma invitiamo tutte diciamo anche là che in ogni crisi si aprono delle possibilità, quindi magari può essere il momento per fare ripartire anche la Sardegna. Loro sono forti, c'hanno un sacco di energia, come dicevano. E ho notato poi tra i post che non contano nell'informazione ma nei social, mi è capitato di una amica sarda che diceva giustamente: qua siamo pieni di basi militari che contestiamo sempre, ma in tutta questa emergenza non si è visto un militare che ci ha dato una mano. Infatti questa è una grande verità. Volevo dire l'ultima cosa riguardo sempre la Sardegna, perché sembra che in quel di Punta Giglio, vicino ad Alghero, proprio sul mare, una bellissima parte scogliera e così via, stiano cominciando a comparire dei grandi mezzi per picconare il terreno. Non si capisce bene al momento di che cosa si vogliano, dove vogliano arrivare. Mi prenderò l'onere di andare a visitare questi luoghi e andare a capire dagli abitanti di queste zone qualcosa in più, e magari avremo modo di dare qualche aggiornamento tra un mesetto, chi lo sa, se continueremo a stare qua. E allora adesso alle 19:19, minuti primi di questo lunedì 26 luglio 2021, andiamo e torniamo un pochino in musica. 3510913390, Radio Virata 38, il DJ ve fa sognare. Thank you. Ed eccoci qui, sempre Radio Pirata 38 19 24 351 09 13 390 e come anticipato un po' di tempo fa andiamo a cominciare a fare questa bellissima chiacchierata qui con Mattia, editore di Momo Edizioni. Andiamo a capire che cos'è Momo, perché Momo, quando è nata, come lavora, a chi si rivolge. Domanda aperta e lascio la parola direttamente a te. Adesso sarò serissimo, a differenza di prima, perché adesso hai detto editore, quindi devo fare quello che devo fare, pure così con i capelli, no? Sì, te devi mettere a posto. Allora, no, vabbè, Momo nasce 2 anni fa, praticamente a settembre del 2019 abbiamo fatto i primi 2 titoli ed è una casa, nasce diciamo una casa editrice principalmente per ragazzi, che significa un'editoria per bambini, per bambine, insomma fino all'adolescenza ma anche oltre. Poi noi in realtà abbiamo sviluppato anche altre collane, anche per adulti, insomma, e per pischelli, diciamo. E nasce dalla voglia nostra, diciamo, mia, di Alice e di Gianmarco. Venivamo tutti e tre già dal mondo dell'editoria, ma ci eravamo stufati di quello che facevamo. Più che altro perché vedevamo che quello che andavamo a fare spesso rimaneva chiuso dentro a, diciamo, sempre gli stessi giri di persone, era molto autoreferenziale come tipo di linguaggio. Ci interessava invece cominciare un percorso che si interrogasse sulle nuove generazioni, che sono bistrattate da tutti, non c'è speranza nei giovani, nel futuro, nei ragazzi, nei bambini e così via. Dopodiché invece noi pensiamo che ci sia un sacco di roba, e che però bisogna, come dire, in qualche modo interagire con queste nuove generazioni in maniera più di ascolto rispetto a quella che è una tendenza dell'editoria, che è quella spesso di dare, diciamo, la linea, no? O tentare di darla senza riuscirci, più che altro di mettersi su un piedistallo e dispensare il proprio prodotto culturale. Poi chi lo riceve lo capirà oppure no, il libro si venderà oppure no e così via. Noi abbiamo pensato di metterci nella posizione d'ascolto, quindi Momo, che poi è appunto il personaggio del famosissimo romanzo di Michael End, che è questa bambina che ha questo, diciamo, superpotere, che è quello di ascoltare gli altri. E quindi questa nasce un po' così. Poi c'era il fatto che vedevamo che l'unica fetta di editoria in crescita era quello per ragazzi. E questo ha significato da una parte tantissime nuove case editrici nate, dall'altra ogni casa editrice già esistente, moltissime hanno sviluppato delle collane per bambini, però purtroppo questo non ha significato un aumento per esempio della qualità o dei contenuti. Abbiamo visto riportare gli stessi contenuti generalisti, classici, stereotipizzati dentro il mondo per bambini, e questo è un problema, perché significa, come sappiamo, la cultura è sempre in qualche modo di parte, nel senso che adesso poi in Italia c'è questo gioco di dire cultura e dentro questa parola c'è tutto e niente, però c'è sempre un motivo che spinge un prodotto culturale, che spinge un'idea, che spinge un lavoro editoriale e così via. E pensare di riportare anche nel mondo per bambini quelli che sono gli stereotipi di genere, quelli che sono, come dire, tutte le caratteristiche negative che c'ha già questa nostra realtà, è problematico. E noi pensiamo invece che bisogna fare il lavoro inverso. Però per farlo abbiamo pensato di ascoltare, quindi diciamo i nostri primi libri e anche quelli che stiamo facendo adesso, noi siamo molto attenti al feedback che ci torna indietro dai bambini, dai bambini, dai ragazzi, e quindi facciamo un sacco di incontri, di laboratori, di eventi dove in qualche modo cerchiamo di confrontarci. Sottolineiamo gratuiti. Gratuiti, ovviamente, sì. E niente. Poi spieghiamo perché abbiamo sottolineato la parte del appunto, no, essere gratuito, l'evento che generalmente viene organizzato da Momo, lo diremo dopo, però continua, vai. E niente, quindi diciamo questo è un po' il claim, cioè nasce così. Poi nel tempo, insomma, abbiamo cominciato facendo circa un titolo al mese, adesso stiamo passando quasi a 2 titoli al mese, perché c'è molto fermento. Noi, diciamo, al di là delle tantissime proposte che riceviamo, abbiamo tante idee, e infatti la maggior parte dei libri nostri nascono dall'incontro con persone che hanno voglia di sviluppare una tematica, e ci lavoriamo tantissimo sui libri, cioè noi per produrre un libro ci mettiamo quasi un anno, quindi i libri che escono oggi hanno un lavoro dietro che viene almeno da un anno circa, poi può variare, e quindi la ricerca anche delle immagini, degli illustratori, insomma è sempre un lavoro collettivo quello che esce poi alla fine. E devo dire che insomma nell'ultimo anno abbiamo avuto un sacco di buoni feedback, siamo contenti di quello che stiamo facendo. Ovviamente una caratteristica di Momo è che noi eravamo precari quando prima di Momo, e a un certo punto ci siamo guardati in faccia e hanno detto vabbè, tanto sempre precari rimarremo, quindi senza particolare arrivismo, e a sto punto tanto vale essere precari di noi stessi. Abbiamo provato a fare Momo e siamo ancora precari, per cui lo saremo sempre, cioè questa è la nostra proprio coscienza, cioè la nostra convinzione esistenziale, però come dire, combattiamo. Quindi l'ultimo anno è stato complicatissimo per tutti i motivi che penso siano scontati di ripetere, però abbiamo resistito e quindi adesso spingeremo ancora di più, insomma. Allora, facciamo un attimo un passo indietro, perché mi interessava un attimino anche conoscere e sapere, perché poi, come dicevi tu prima, siete nati 2 anni fa, no? E quindi dopo poco praticamente è iniziata anche la parte della pandemia. Per cui già una casa editrice nuova nasce, sì. E già... No, insomma non è un percorso facile. In più dopo ti arriva tutto il periodo della pandemia, e quindi è una grande batosta, una bella mazzata dietro al collo. Come si è mossa Momo? Io lo so, però lo chiedo a te in questo caso, perché a me ha mosso particolarmente emozionato la gioia e la passione che comunque voi di Momo, soprattutto nel periodo della pandemia, siete riusciti a trasmettere, a tirar fuori e a far percepire a tutti e a tutti, insomma. Sì, diciamo che siamo stati particolarmente fortunati a prendere nel primo anno la pandemia, proprio questa cioè caratteristica, proprio, cioè, questa è un'altra cosa, cioè, proprio il culo è una cosa l'avete che noi, studiato apposta. Sì, noi proprio, però ecco che come abbiamo reagito, ovviamente non sconfortati, non buttandoci giù. Intanto perché non ce lo possiamo permettere, questo va detto, nel senso c'è sempre una questione di classe dietro a quello che uno ci fa, secondo me. Se uno se lo può permettere può stare tranquillo, noi non ce lo possiamo permettere, quindi abbiamo reagito con una botta dei reni in qualche modo, e perché abbiamo un atteggiamento che io dico essere militante rispetto al nostro lavoro, per cui lo facciamo questo lavoro qui perché ci crediamo, perché pensiamo che in Italia ci sia un'emergenza culturale grossa, e con i ragazzi è importante che dei contenuti come quelli che noi possiamo sviluppare sia fondamentale che arrivino, perché sennò poi non ci si può neanche, come dire, lamentare delle generazioni che crescono e hanno dei rigidi atteggiamenti. E non perché noi abbiamo facciamo pedagogia, quindi assicuriamo che poi dopo verranno su chissà chi, però sicuramente fornire degli elementi in più può essere qualcosa di utile. Il lavoro culturale oggi è un lavoro strategico che i compagni, le realtà politiche si devono porre a livello proprio al centro del loro lavoro, perché tanto l'altro tipo di lavoro politico non lo vedo, quindi fondamentalmente secondo me ci si deve impegnare. E con la pandemia abbiamo cercato di un po' leggere quello che ci arrivava da parte anche di quelli che conoscevamo, della nostra comunità, e c'era questa situazione per cui nei supermercati non vendevano più i prodotti che non fossero alimentari, quindi anche giocattoli o semplicemente fogli, carta, penne, colori, tutte queste cose che sembrano cavolate ma per i bambini sono fondamentali. Per esempio alcuni che appunto con noi avevano fatto laboratori sono bambini che praticamente durante la pandemia hanno disegnato tutto il tempo, per dire. Tu gliel'hai vista cosa, è una cosa che può incidere sulla quotidianità, perché poi sei chiuso in quattro mura. Già stanno chiusi dentro casa tutto il tempo. È ovvio che se c'hai il giardino, il bosco e la piscina è un po' più facile fare la pandemia. Se sei in 4, in 5, c'hai la DAD però non c'hai solo un computer. Insomma, c'è tutta una serie di caratteristiche che hanno fatto sì che la pandemia non può essere letta da tutti nello stesso modo come ce la siamo vissuta. Però noi ci siamo resi conto che c'era sta roba qui. E quindi abbiamo pensato di fare un pacchetto per cui noi mettevamo avevamo uno sconto altissimo sui libri per bambini, e insieme a questi regalavamo delle stampe, delle cose da colorare insieme a dei pennarelli e delle cose che avevamo messo dentro questi pacchetti qua, e le andavamo a consegnare noi direttamente, almeno su Roma. Per il resto d'Italia cercavamo di spedirli, ma c'era un casino, quindi ci siamo riusciti, ma con un po' più di difficoltà. Però abbiamo partecipato a queste, diciamo, non so, non ricordo come si chiamavano, tipo carovane solidali, insomma, ci sono state a Torino, a Bologna, anche a Roma, in tante altre parti, mandando i nostri libri direttamente. Quindi abbiamo fatto in modo che insieme ai beni di prima necessità arrivassero anche i nostri libri. Pure perché a me il pensiero di averli stampati e tenermeli dentro al magazzino mi faceva piangere il cuore, e penso, insomma, anche ovviamente anche agli altri che lavorano. Erano sicuramente molto più utili nelle case delle famiglie, no? Che potevano avere magari un momento in più di qualità con le proprie figlie e con i propri figli in questo Devo dire che poi in più a noi questo ci è servito anche per sostenerci, perché comunque abbiamo venduto, anche se con lo sconto, ma tantissimi pacchetti, e quindi questa cosa ci è servita anche a sopravvivere. Per cui senza diciamo, è stato un dare avere, che è il centro della solidarietà, quindi ha funzionato. Quindi insomma, questo era questo che mi volevi chiedere. Sì era proprio, volevo arrivare a quello. Vuoi aggiungere qualcosa? No, io ho seguito, cioè so perfettamente. Mattia ha portato, però dopo, infatti, dopo lo facciamo, perché abbiamo fatto un bel blocco di parlato, quindi andiamo alle 19:36 a tornare un attimo col nostro maestro DJ musica. Vi ricordiamo 351-0913-390 se ci volete scrivere su WhatsApp qui in diretta, e allora musica, maestro. Eccoci qua di nuovo in voce, 19:41 minuti, Radio Pirata 38. Stavamo, per chi si fosse sintonizzato o sintonizzata solo ora, parlando di Momo Edizioni, questa casa editrice strafiga che suggerisco tutti di andare a vedere, a leggere, a sostenere sempre e sempre di più. Allora, continuiamo. Ho pagato per questa pubblicità, Sì, esatto, certo, abbiamo cercato la professionalità del secco, il noto venditore del litorale romano. E quindi no, continuiamo a parlare un po'. Volevo parlare, magari fare un piccolo excursus di un po' di temi che avete trattato, un po' di appunto libri che avete fatto uscire, magari anche in caso legati un po' ai territori, alle lotte territoriali, alle collaborazioni che quindi avete fatto anche con altri artisti, per esempio. E però vedi tu quello che ti piace di più tra quelli che avete prodotto e anche i riscontri magari che avete avuto. Io per esempio ce n'è uno, Ulissa, che è il libro preferito dai miei figli, che hanno sballato proprio. Quindi non lo so, dici tu. Guarda, a dire quale è il mio preferito non si può fare, perché poi qualcuno ci rimane male. Però, no, scherzo, ovviamente io con tutti i libri che abbiamo fatto si crea un legame, no? Anche di affetto praticamente, perché poi i primi che sono usciti proprio sembrava a un certo punto, dopo qualche mese che stavamo lì a provarci, sono usciti i primi libri, dici allora abbiamo fatto davvero sta cosa. Cioè il libro comunque c'ha sempre sta pesantezza, che è una roba che è scritta, che rimane, che è pubblicato, che è mandato in giro per tutte le librerie. E quindi quando fai un libro è molto particolare il tipo di responsabilità che uno si sente. Quindi io sono molto legato a alcuni libri. Ulissa per esempio è un libro, cioè io con Ulissa praticamente è come se ci conoscessimo, cioè perché lei l'ho incontrata, sono andato quando abbiamo fondato Momo, proprio a livello diciamo legale, ma ancora non c'eravamo libri. Sono andato a questa fiera a Barcellona che si chiama Literal, che è una fiera di editoria radicale dove ci sono tantissimi editori. Camminando tra gli stand, cioè tra gli stand, tra i banchetti, ho visto Ulissa, me lo sono comprato in catalano, in catalano, l'ho portato a casa e poi ho scritto alla caseria e ho detto guarda, ma perché non lo traduciamo in Italia? Loro sono stati disponibili, ci sono messi d'accordo, abbiamo fatto la traduzione, insomma piano piano abbiamo fatto questo libro. E come di, è un libro che ribalta lo stereotipo di genere con una dolcezza incredibile, perché spesso poi quando noi vogliamo fare cose, noi compagni, voglio dire, visto che questa è una radio dei compagni, si può dire, lo facciamo con un po' di pesantezza, no? Allora vogliamo ribaltare lo stereotipo, allora ti attacco il missile e quindi in qualche modo divento più pesante, che mentre loro ci hanno avuto questa dolcezza nel come dire, semplicemente già nei fatti avviene quella roba lì. Quindi già nei fatti Ulissa è una ragazzina che esce di casa e c'ha la sua piccola odissea quotidiana, e c'è Penelope che l'aspetta a casa in questo caso. Quindi ha ribattato l'idea per cui è l'uomo che va in giro e la donna che sta a casa. Una cosa semplicissima che però se ti metti là a spiegarla è già stufato dopo 30 secondi. Mentre è diretta, i ragazzi la capiscono subito. Inoltre tutti si immedesimano, maschi e femmine, con Ulissa, perché è simpaticissima e perché è una ragazzina vivace, non è una ragazzina come dire perfetta, è una che ha appunto la sua odissea quotidiana, dentro di sé ti succede un po' di tutto e dipende come la affronti. E poi ci sono dei rimandi all'odissea reale, quindi per esempio il canto delle sirene è il cellulare del professore che viene risucchiato durante la lezione, e lei diciamo reagisce a questa cosa, quindi lo tira fuori dallo schermo in qualche modo. E questo è un esempio, no? Quindi poi non è come dire che questi libri prendono in giro l'odissea o come dire la estraneano, però in qualche modo si ispirano, sono anche una scusa magari per poi andarsela a leggere. Diciamo che l'odissea stessa è ispirazione di narrazioni più antiche, quindi in questo senso complimenti ai compagni e alle compagne catalane che hanno saputo renderla moderna e fruibile per le nuove generazioni, ovviamente e a Mattia per averla pure portata qua. Certo, quello penso sia il lavoro militante di cui si parlava prima. Infatti io volevo chiedere quanto è importante le relazioni all'interno delle reti di editoria indipendente o comunque sia di cultura alternativa per far sì che uno strumento di comunicazione come Momo sia alla portata di tutti e di tutte, soprattutto come dicevi tu anche delle più piccole. Questa è una domanda interessante, bella, perché Poi tra l'altro quando dicono, cioè mi dicono spesso, no ma scusa, a redazione la fa Gianmarco, l'ufficio stampa fa Alice, tu che cazzo fai? E fondamentalmente il lavoro mio principalmente, oltre a gestire le cose amministrative, diciamo le rotture, è le relazioni, e quindi è un continuo lavoro di relazioni con persone spesso che non conosci, totalmente diverse da te, o con ottenere le relazioni con le reti, insomma è fondamentalmente questo, pure perché se no neanche sai che ci stanno altre cose. Quindi io tantissima parte del mio tempo lo passo a cercare qualcosa. No, anche perché io mi veniva in mente, appunto, è stato fatto un lavoro di traduzione con un libro che tra l'altro non è che veniva dall'altra parte del mondo, era a pochi passi da casa nostra, ma è stato fondamentale tradurlo per renderlo fruibile in Italia. E questo era un lavoro che si faceva anche 100 anni fa con altri testi di altri periodi, di altre condizioni, ma molto del lavoro militante di compagni e compagni era tradurre e rendere fruibile queste cose per il popolo, si dice una volta. Tanto sotto è partito che è un geo, cioè per esempio. Sì, esatto. Super quark, queste cose così. No, una cosa, ma giusto per capire, tu conoscevi il catalano? No, io. No, perché mi sta venendo in mente sto ragazzo che è andato a sta fiera lì. Sto giovane. Questo libro. E l'ha letto in catalano, quindi hai compreso l'essenza, però. Diciamo che il catalano, non è così come ancora più dello spagnolo, secondo me è abbastanza intuitivo. Poi io mi sono valso, insomma, anche delle conoscenze che c'avevo lì, che mi hanno aiutato a tradurlo così istantaneamente. Bello dei libri per bambini, insomma, che hanno pochissimo testo, hanno un sacco di immagini, sono, diciamo, molto intuitivi. Noi poi abbiamo fatto anche un fumetto dal catalano, che è Transito, che c'ha anche quello la caratteristica di trattare il tema della transizione di genere con una dolcezza incredibile, cioè infatti è un libro che io consiglio dai bambini agli adulti, perché è un fumetto, è veramente veramente che apre un sacco ti apre un sacco di finestre, insomma, quando lo leggi, perché sia se non ne sai niente del mondo trans, sia se ne sai qualcosa per entrarci un po' di più, perché quella è una storia proprio personale, pure quello dal catalano. E in Catalunya, comunque in Spagna, c'hanno un'attenzione per i libri, per l'editoria per l'infanzia, molto alta, che viene da almeno da, cioè, come dire, un ventennio di tempo, per cui stanno molto in avanti rispetto a noi. Trattano temi che per noi vengono considerati, come dire, radicali, provocatori, invece con una grandissima semplicità, perché sta la loro editoria molto magari più sul pezzo di quello che accade poi realmente a livello sociale, e evidentemente hanno meno problema a affrontarsi tematiche qui. Ok, allora sono arrivate le 19:49, vi andiamo a deliziare, perché giustamente è arrivato anche un altro noto elemento qui che salutiamo, un grande Red con le cuffie alle orecchie, si sta accingendo a far sbombellare, come si dice, maestro 1, maestro 2, come genitore 1, genitore 1, a far sbombellare maestro 2 le macchinette che si trova lì di fronte. Quindi diciamo così che alle 19:49 andiamo un attimo in musica, vediamo se siamo pronti e pronte, sicuramente sì, ma se no andiamo più tardi. Continuiamo questa interessantissima chiacchierata con Momo tra un paio di minuti. Blocco musicale, dai regà. We'll be right back. di nuovo in voce. Radio Pirata 38 19 53 351 09 13390 per scriverci direttamente su WhatsApp. Stavamo parlando prima del blocco musicale di Momo, stiamo facendo un'interessantissima chiacchierata affrontando vari temi e tematiche. Ora invece ti vado a domandare come Momo si va, diciamo così, a intersecare anche con i movimenti territoriali. Quali sono le collaborazioni che avete portato avanti in questi mesi, in questi anni? E poi, dopodiché, andremo a capire come vi muovete nei territori, come vi presentate, insomma, al pubblico, oltre che logicamente sui vari canali social, immagino, e quindi come anche andate a raggiungere, no? Tra virgolette, utilizziamo questo termine, la fidelizzazione, no? dei lettori e delle lettrici da un certo punto di vista. E quindi andremo a raccontare un po' anche questo. Domanda aperta, sempre parola a te. Cioè, praticamente una domanda con dentro altre 16 domande. 16. Corretto, si fa apposta per fare una. Esattamente. È una consulenza, ne guarda, domande aperte vuol dire. Ti faccio una consulenza e poi ti devo venire qualcosa. Ascolta, vedremo vede, ma mentre io parlo c'è pure uno che mi schiaffeggia dietro. Perché esatto. Devo essere sempre concentrato. Allora, no, partiamo dal scherzi, territorio. No, dal territorio, vabbè, diciamo noi. Purtroppo in Italia adesso non è che ci sono grandissime rotte, però ci stanno queste, in realtà ci sono molte resistenze sparse, più piccole, più grandi, insomma, che comunque cercano di fare delle cose, delle piccole comunità, insomma ci stanno delle cose che secondo me sono interessanti, molte sono cose di resistenza, altre sono un po' più propositive, insomma sono anche molto diverse. Io personalmente ho notato che negli ultimi anni spesso nelle situazioni tipo provinciali c'è più attenzione rispetto per esempio ai grandi centri, alle città e così via, però questa è una cosa mia, insomma. Una cosa tua però che noti dall'esperienza che in queste settimane, in questi mesi sì. Hai avuto modo di sì, no, l'ho visto anche col lavoro che facciamo noi, ovviamente i nostri libri hanno tutti una motivazione come dire, anche politica, culturale, e quindi parlano anche alle lotte, parlano anche e spesso ho visto per esempio in degli eventi abbiamo fatto nelle province con delle partecipazioni enormi, e a Roma ci vengono quelle 15-20 persone, però questo c'ha a che fare insomma con un ragionamento secondo me più ampio. Ci sono alcune tematiche che non interessano, una di queste è quella della città, per esempio, degli spazi, della vivibilità degli spazi, dell'ambiente e della partecipazione soprattutto. E un libro che abbiamo fatto all'inizio è stato Il Lago che Combatte, che racconta, in realtà è fatto sulla canzone di Assalti Frontali, il testo di Militantà, con le illustrazioni di Chiara Fazzi, e quello che abbiamo cercato di restituire in questo libro, al di là della canzone, è il forte elemento di, cioè di quanto come dire, è stata importante la partecipazione per quella lotta lì. Lo è tuttora, è una lotta ancora aperta che però ha messo dei punti che sono importanti, e quella poi è una realtà, il Lago della Signia, dove noi abbiamo portato avanti anche altre cose oltre alla questione solo del lago. Per esempio adesso a maggio abbiamo fatto quattro presentazioni insieme alla Pisacane, cioè quattro laboratori di quattro nostre autrici e autori che sono andati là appunto al lago insieme ai bambini di alcune classi a Pisacane, e hanno fatto dei laboratori che noi ovviamente abbiamo fatto in maniera gratuita senza neanche vendere i libri, ma perché è proprio il lavoro che noi vogliamo fare. E poi per esempio siamo andati anche io e Gianmarco una mattina, abbiamo fatto quattro classi dove abbiamo parlato proprio di editoria. Abbiamo trovato un ambiente incredibile, bellissimo, dentro la scuola della Pisacane, dove stanno facendo un lavoro da anni veramente impressionante, le maestre e i maestri che stanno lì dentro. E questo per dirti alcuni spunti, insomma, di come cerchiamo di legarci alle cose territoriali. Poi ovviamente non essendo piccoli non riusciamo a stare dappertutto, però noi cerchiamo sempre di proporci anche attraverso per esempio piccoli eventi. Uno di questi è la festa di Momo, che è un evento che facciamo una volta l'anno per festeggiare il compleanno, lo rifaremo a settembre. Domani tra l'altro lanciamo proprio la festa e lanceremo il programma un po' più avanti, ed è proprio il momento in cui noi cerchiamo di intercettare sia tutta la comunità che ci vuole bene, che ci sostiene, che è fondamentale. Io lo dico sempre, ma sembra una cosa retorica, ma senza questa comunità di persone Momo non potrebbe esistere, perché sono praticamente stati fondamentali in tantissime fasi, ci hanno sostenuto sempre, cioè veramente sono piccole cose che però si vedono. e fanno una differenza, perché non potremmo stare, diciamo, al livello a cui siamo arrivati adesso senza la nostra comunità. Ci avremmo messo anni a essere così visibili, a stare in così tante librerie. Noi siamo comunque distribuiti, quindi i nostri libri stanno andando bene, ma questo è anche perché ci abbiamo avuto e ci abbiamo tuttora un nocciolo, diciamo, duro di sostegno, che è la nostra comunità dei compagni, delle persone, dei amici che ci vogliono bene, ma soprattutto che riconoscono, insomma, quello che stiamo a fare. E poi qual era l'altra? La cosa era che, quindi, appunto, 12. Per legarvi le 15.000 domande che in una che ti facevo, appunto, il modo per, quindi, legarvi alle persone che poi magari vi possono tanto trovare nei social, ma poi vi possono anche incontrare fisicamente, quindi concretamente, e toccare con mano i libri che andate a proporre, è anche quella di organizzare differenti iniziative, differenti festival, non solo in giro per la città, ma, come dicevi tu, anche, no, in delle province, magari qui del Lazio e non solo, anche italiane ovviamente, come avete già fatto, in cui andare a intercettare e poter portare, no, diciamo così, la conoscenza di Momo anche in questi posti. E sì, poi per esempio i laboratori con le scuole, in realtà sono sempre il contrario, cioè tipo noi andiamo lì con idea e ci restituiscono talmente tanti input, cioè praticamente noi... Come fai a fare libri se non così? Cioè, la nostra inchiesta è questa, fondamentalmente: andare nelle scuole, ascoltare quello che ci hanno dati questi ragazzi e capire magari cosa può essergli utile, perché, insomma, questo, scusa, è una divagazione, però... Il vecchio lavoro di inchiesta operaia diventa il lavoro di inchiesta dei ragazzi e della ragazza, bambinaia. Però vuol dire che serve. Sì, serve, infatti, no, ma poi vedi anche la differenza, no? Quando entri in una scuola al paese, entri in una scuola, appunto, alla Pisacane, so, i bambini sono super formati, quando vai in periferia, insomma, poi noi non lo facciamo neanche quanto vorremmo, perché poi nell'ultimo anno è stato difficilissimo entrare nelle scuole. Io vorrei dire una cosa su questo, spezzare una lancia veramente a vostro favore, perché secondo me è veramente lodevole, nella... diciamo così, in tutto ciò che si vede di quello che possono essere le classiche case editrici, no? Che sì, sicuramente saranno attente ai lettori, alle lettrici, ai più grandi e più piccoli, però comunque sicuramente mosse dal profitto, soprattutto le più grandi. Invece, come sia lodevole nel caso vostro il fatto di volerlo fare, perché uno, ci credete; due, gli eventi sono gratuiti, e lo diciamo e lo sottolineiamo; tre, nel momento in cui ci si va a incontrare con le scuole, si tentano di organizzare dei workshop, delle classi, e lo si fa in maniera, diciamo un'altra volta, gratuita. Perché, gratuita, eh? No, perché, cioè, nel gratuita. Senso, qua c'è sta, da met- cioè, c'è sta proprio una cosa netta, no? Un divario netto. Cioè, qua bisogna capire chi sta da un lato della barricata e chi sta dall'altro. Quindi qua non si sta ricercando il profitto, ma si sta tentando di andare a far avere, come dicevi tu prima, degli strumenti alle nuove generazioni che gli consentono di andare e di avere ampio, più ampio orizzonti, non so come dire. No, la cosa, io volevo un attimino riprendere quello che stava dicendo Mattia prima che si interrompesse, cioè quanto è stato difficile quest'anno entrare nelle scuole. Perché la cosa che mi veniva in mente era rispetto alla DAD e all'utilizzo che della DAD si è fatto nella pandemia, e che oggi comunque rischia di diventare lo strumento di insegnamento principe, la nuova controriforma della scuola, sostanzialmente. Perché, appunto, in DAD uno, perché appunto la vulgata dice: vabbè, ma io faccio le lezioni frontali, ti devo passare dei concetti e delle nozioni. Oggi, con le nuove tecnologie, questa cosa si può fare anche che tu stai a casa, perdendo ovviamente anche solo il contatto umano di questa trasmissione verticale del sapere. Ma come stiamo vedendo qui oggi, la scuola è fatta anche di tantissime altre attività, oltre che di tutta la parte sociale della vita dei ragazzi e delle ragazze, che verrebbe annichilita. Una di queste è appunto iniziative come quelle che Momo propone all'interno delle scuole. Sì, guarda, poi dentro la scuola credo ci sia un conflitto da anni. E dentro questo conflitto, purtroppo, i genitori spesso giocano un ruolo molto importante, perché sono i bambini, ovviamente non hanno voce, e la voce dei bambini spesso sono i loro genitori, che però non per forza sono una voce attendibile, non per forza, come dire, hanno la visione d'insieme, non per forza, come dire, si rendono conto. C'è quindi un atteggiamento dentro la scuola molto, c'è uno scontro dentro la scuola pubblica italiana, e c'è il fatto che in tanti anni è stata sempre più attaccata. Io penso che adesso bisogna veramente sostenere al massimo la scuola pubblica, perché tutte le altre declinazioni rischiano di essere anche pericolose, di altre forme di scuola che possono essere interessanti, possono essere sicuramente anche ben fatte, tutto quanto, però bisogna sostenere la scuola pubblica, perché è la scuola di massa dove ci sta la gran parte dei ragazzi, che è raggiungibile da tutti, e bisogna che ognuno abbia gli stessi diritti, quantomeno lì dentro, che possa partecipare alla vita scolastica. E poi anche sostenessi, cavolo, dei maestri, maestre. E poi, vabbè, poi dipende di che età stiamo parlando, però anche lì io mi sono reso conto che a volte loro hanno proprio bisogno di altre cose che entrano dentro, soprattutto le squadre più delle età più piccole, insomma. Per quanto riguarda poi se arriviamo già alle superiori, io poi non sono un esperto di questo, quindi io vi sto dicendo quello che è il mio sentore veramente piccolo che ci ho avuto. Però se cresciamo, se andiamo un attimo più in alto, quello che è successo quest'anno, secondo me c'è anche degli aspetti gravissimi nei confronti dei ragazzi, per, diciamo più in alto di età, perché poi dopo adesso io ho dei fratelli più piccoli che si ritrovano con i debiti e tutta sta roba qua, che con la scuola non c'entra niente, col sapere non c'entra niente sta roba. Cioè è un atteggiamento totalmente negativo, che non ha voluto fare i conti con quello che è successo l'ultimo anno, di adattarsi veramente e capire qual era un'esigenza di queste generazioni. Poi ci si sorprende che hanno nelle piazze, cioè nel senso, non si vuole comprendere l'insieme di tutta questa situazione, per cui il nostro lavoro è proprio strategico in questo momento qua. Ovviamente da soli non ce la possiamo fare, però magari diamo un piccolo contributo. Ok, allora alle 20.04 andiamo a chiudere questo blocco di parlato, vi lasciamo un po' di musica, che sento una traccetta qua sotto che è un pochino entusiasmante. Dai, allora dai regà, Radio Pirata 38 351 09 13390, siamo qua e dagli maestro. Thank you. Eccoci qui in voce, Radio Pirata 38 alle 20:12, lunedì 26 luglio 2021. Stavamo continuando a parlare di Momo Edizioni e andiamo quindi ad affrontare un tema che ha interessato non solo la rete di chi ve vuole bene, ma è stato un tema che è andato anche sulle principali testate giornalistiche di questo paese. E che è successo? È successo che avete fatto una foto che sembra, non so se ti ricordi. Sì, quella foto me la ricordo. Io non l'ho vista, però. Descriviamola anche per gli ascoltatori. No, sarebbe. No, al massimo la cercheranno su Google, non lo so dove. E no, allora, che era successo? Avevate organizzato un evento, che era un festival o un evento? Una festa gratuita, lo ridiciamo? Gratuito. Festa di Momo, era la festa di compleanno del primo anno praticamente. Due giorni di laboratori, incontri, presentazioni, varie cose, performance e così via, al centro sociale La Torre, cioè nel parco lì davanti, insomma, insieme ai compagni del centro sociale. E nell'organizzazione di questa cosa ovviamente hanno partecipato un sacco di persone che abbiamo coinvolto, genitori, cose varie, autori e così via. Quello che è successo è che sono stati fatti dei manifesti per pubblicizzare la giornata, le due giornate, in bianco e nero a tre, e sono stati attaccati non da noi ma da parte, diciamo, di questa rete di persone che, ma ovviamente in buona fede, nel senso che semplicemente erano veramente dei cose in bianco e nero presi dalla locandina, ne hanno messo su Facebook, stampati e messi a San Lorenzo, praticamente su un muro che è a Via dei Sardi, dove, se qualcuno ce l'ha presente, è pieno dei manifesti, e questo l'aveva attaccato con lo scoccio sopra gli altri manifesti. Questo, quello che è successo è che sono arrivati tramite segnalazione di un comitato insistente, sono arrivati i vigili, hanno fatto una sanzione, una per ogni manifesto che era attaccato. In quel caso erano 8 manifesti, quindi erano quasi 500 euro, 480, una cosa del genere, euro ogni manifesto. Ciò significa che praticamente una multa complessiva di quasi 4.000 euro che noi non saremmo riusciti a pagare, perché noi appunto siamo andati senza niente e riusciamo con i soldi dei libri che vendiamo a pagare praticamente i nostri fornitori, i costi che ci abbiamo e basta per adesso. Per cui poi nell'editoria c'è un margine di guadagno che è veramente ridicolo, perché se calcoliamo che sul prezzo di copertina il 61% lo prende il distributore, quel 39% deve essere utilizzato per pagare tutto il resto, 39% di quello che vendi. Quindi, come dire, in una Italia dove non è che si vendono migliaia di copie, non siamo né in Francia né in Inghilterra né in altri paesi dove, come dire, il mercato del libro è particolarmente ricco, oltre che sostenuto dallo Stato. In questo caso noi non ci abbiamo sostegno e quindi avremmo rischiato di chiudere. Quello che è successo è che c'è stato un sacco di attenzione mediatica, e anche inaspettata, perché anzi inizialmente non sapevo neanche se comunicarla sta roba, perché non ci andava di fare la parte dei piagnoni, per cui come dire, abbiamo detto vabbè, comunque diciamolo perché è una cosa che ci è successa. Invece abbiamo avuto una solidarietà veramente incredibile, ma una cosa inaspettata da sacco di gente che ci ha cominciato. Io praticamente quando è uscito il primo articolo su Roma Today sono stato una settimana a rispondere alle mail di persone che mi scrivevano, che ci scrivevano anche dalla Svizzera, di quanto era questo, diciamo, una cosa grave che era successa. Tutti volevano sostenerci economicamente, perché hanno percepito veramente che fosse un sopruso questo, cioè nel senso che hai fatto una festa per bambini dopo una pandemia dove sono stati tutti chiusi dentro casa, gratuita, con dei laboratori, in sicurezza, abbiamo fatto tutto con attenzione, prendendo i nomi, prendendo il termometro, insomma tutte le cose, tutto il tracciamento, eppure non è successo niente. Alla fine, cioè, diciamo, un'iniziativa per cui il Comune di Roma ti dovrebbe, come dire, sostenere, invece ti viene a sanzionare. Questo è stato percepito anche come l'ennesimo sopruso dopo lo sgombero del Cinema Palazzo, altri 1000 sgomberi che ci sono stati, e insomma tutta una serie di soprusi che in questa città praticamente ormai stiamo prendendo uno dopo l'altro. A un certo punto, secondo me, quello è capitato in un momento in cui tantissime persone hanno proprio detto vabbè, questo è troppo, perché mo vai attaccare pure una casa editrice e fai libri ai bambini, ci stai dicendo che non possiamo fare più niente, fondamentalmente. Poi ecco, noi a questa solidarietà che ci arrivava, e anche tutti volevano darci i soldi praticamente, ci siamo sentiti anche un po', come dire, abbiamo ragionato su cosa fare, se lanciare una campagna di raccolta fondi oppure no, e alla fine abbiamo deciso di non raccogliere i fondi, perché ci sembrava ingiusto, cioè raccogliere i soldi per pagare una multa ingiusta, cioè dare sì 4.000 e passa euro al comune di Roma per una roba ingiusta ci sembrava assurdo. Cioè già tutta la nostra comunità si è assorbita un anno di pandemia, probabilmente tanti non hanno lavorato, tanti hanno perso il lavoro eccetera, in più gli chiediamo pure di darci i soldi per pagare una multa ingiusta, ci sembrava proprio troppo. Quindi nonostante questo, alla fine noi abbiamo deciso di dire: se volete sostenere Momo, abbonatevi, compratevi un libro in libreria o sul sito, più che altro aiutateci a far girare questa notizia. E abbiamo fatto un ricorso al Comune di Roma, abbiamo fatto ricorso a tutte e 8 le multe, quindi 8 procedimenti che sono partiti, e finché a un certo punto abbiamo avuto un'interlocuzione, è stata lunghissima perché abbiamo dovuto tormentarle, siamo riusciti ad avere un'interlocuzione con la Commissione Cultura, che si è espressa a favore nostro, nonostante ha voluto ribadire l'importanza del lavoro ineccepibile che hanno fatto le forze dell'ordine in quel caso, cioè i vigili. Però alla fine questo ha comportato che a ricorso le forze del male, bisogna sottolineare. Io ero dentro a quella riunione, no, mi sentivo proprio come dire, che vuol dire scusa ineccepibile? No, loro, lavoro loro, ho capito, ma scusa, ma tu dentro una città come Roma fai 8 multe, una per ogni manifesto, dentro una via tu sei pieni di manifesti, cioè, questo è un lavoro ineccepibile secondo te? Cioè, è un lavoro ineccepibile se guardato dal punto di vista della repressione, esatto. Cioè tra migliaia di manifesti abusivi di attività commerciali hanno saputo pescare esattamente, esatto, quelle uniche attività. Il comune dovrebbe solo dire grazie, sì, che le state organizzando, e che noi e siete voi a far sì che alla nostra mancanza, no? Quello so che come ho cercato dire. Di dire a queste persone anche in quell'assise è stato, mentre noi facevamo i pacchi solidari, andavamo a consegnare in giro, voi state a farsi multe. Fate come vi pare, insomma, ognuno dà il suo contributo, ha una vita da giocarsi, nella sua vita decide che vuole fare, hai scelto di fare sta roba, bella per te. Comunque, come si è conclusa? Si è conclusa che perché poi si divaga sempre su sta roba, perché l'odio è troppo. Esatto, anche perché le cose sono tante. Si è conclusa che ci hanno alla fine accorpato le multe, una multa sola da 400 qualcosa euro, l'abbiamo pagata, abbiamo chiuso sta faccenda. Anche sta se manfrina. Avremmo preferito non farlo, ma fare un altro ricorso sarebbe costato più della multa stessa, insomma, alla fine con l'avvocato abbiamo chiuso così sta vicenda qui pallosa, scusate dello sproloquio, insomma, però magari no, se ci secondo noi che anche era importante, proprio perché purtroppo non è un caso, e può sembrare banale, che appunto una casa editrice per bambini in un periodo come la pandemia, dove loro sono state il segmento sociale più colpito, che fa del lavoro di militanza gratuito, che sopperisce molte volte le mancanze dello Stato, venga repressa nella solita maniera anche che vediamo. Cioè è vero che ci hanno sgomberato il cinema Balazzo, però è vero pure che venivamo da un periodo in cui ormai ogni tipo di attività veniva sanzionata, facendo credere che questa attività fosse un'attività di lucro, e quindi accostandola ad altre di altro genere che nulla hanno a che vedere, anche per un po' intorbidire le acque, per cui la gente si dice vabbè, ma questi hanno attaccato i manifesti abusivamente, non hanno pagato le tasse, ci fanno i soldi. Quindi questa retorica che abbiamo visto che è entrata nelle attività che facevano nei centri liberati, che erano attività a bassissimo costo per la popolazione, multate come se fossero attività appunto a scopo di lucro, sì, come poi fosse il billionaire di... Questa storia del decoro, cioè veramente non so come dire, cioè non ce la facciamo più, ma ci ha stancato, siamo veramente stancato. Sì, cioè, ringraziamo i 5 Stelle per averci regalato questa, sì, deriva securitaria e legalitaria. Questi infami di Retake Roma, che io proprio con loro c'ho uno scontro frontale, non si può non chiamarli così, perché sono degli infami. Esatto. Guarda, la regia suggeriscono che sono dei dilettanti. No, scusate, ma dici dilettanti come infami oppure infami professionisti? No, come dilettanti... Scusate, no, non riesco a descrivere con parole che consuete per il nostro pubblico quello che ho appena assistito. Comunque no, so che ci ascolta della gente centrata, noi qui stiamo un attimo un po' scossi, e no, nel senso cioè dilettanti non come infami, perché quello è un lavoro che gli riesce bene, e è proprio che pretendono di fare un mestiere che, di cui non ce n'è, è interstiziale, nel senso di cui non c'è bisogno, cioè c'è sta già altra gente che in teoria si occupa di dare un buon senso a quello che fa, vi è fatto dal comune o dallo Stato a livello di quello che un tempo era pubblico, cioè di quel concetto che noi chiamavamo pubblico, e che invece adesso si riversa nel privato attraverso aziende di vario tipo che si occupa dei servizi che appunto prima erano, anche se mal gestiti, comunque in qualche modo ci si arrivava. Adesso non funziona più niente da quello che è chiamato poi decoro a quelli che sono invece poi tipo l'accumuli dei rifiuti a cose un po' più complesse eccetera. Loro si mettono lì in mezzo appunto a fare una cosa che tipo punta nel dito, riciclano gente pessima all'interno delle loro schiere, ma non è che poi effettivamente fanno qualcosa. Pure loro so, sì, guarda, di loro pure parlano ora, però vi dico soltanto che abbiamo fatto un libro, gli abbiamo proprio dedicato, che si chiama Scrivere sui muri, ed è un libro per bambini fatto con Elia Stano e Carmer Pisaniello, che ha fatto anche un altro libro che è Il nome del decoro, praticamente ricostruisce la storia delle scritte sui muri dai murales messicani, ma anche più che altro a livello proprio, come dire, anche così istintivo, cioè i bambini è una cosa naturale che hanno sempre fatto dalla preistoria, è stato prendere e scrivere sui muri. E questa cosa, come dire, noi abbiamo fatto questo libro, che è bellissimo secondo me, che è anche per rispondere insomma a tutta sta retorica qui, perché poi adesso c'è un dibattito su cosa è giusto che ci sia sui muri e cosa no, cosa è arte e cosa no, cosa è bello e cosa no. Chi decide cosa è bello e cosa no? Non sono d'accordo manco i critici d'arte su cosa è arte, cosa non si capisce, perché il retake dovrebbe poter decidere. Io per esempio, a me non piacciono, non so, gli edifici degli anni 80, che facciamo? Buttiamo giù tutti. Allora non piacciono i graffiti, a me piace. C'è un dibattito che purtroppo non si può risolvere neanche con la dialettica, e quindi secondo noi insomma è un fenomeno quello loro di passaggio, mentre quello delle scritte ai muri è un fenomeno che magari adesso è molto attaccato, ma resisterà, almeno questa è la speranza. Io sto libro ce l'ho, e secondo me più che altro per i genitori, sinceramente, perché comunque, cioè, leggendolo ti fa capire tutte quelle cose. No, non scrive sul muro, che se no mozzozzi, cioè, fai esprimere, cazzini, non so come ti vuole, il muro ci passi la tinta e è tutto a posto dopo un po' di tempo, non so come dire, cioè, lascialo l'opportunità ai due figli e alle due figlie di esprimersi, perché tanto è tutto a posto, non ti far prendere no da quella cosa, no, guarda, no. È venuto una rabbia, volta, l'altro giorno, mi è capitato, guarda, proprio casualmente, un ragazzo che è venuto lì e mi ha detto: sono venuto a cercare sto libro perché c'è mia figlia che scrive ovunque e gli devo spiegare, cioè, che no, guarda, questo non è che la fa migliorare la situazione, dice, no, però almeno cioè, capisce, no, che il senso, magari può fare una cosa in un punto, magari in un altro, perché gli ha colorato tutta la macchina, per esempio, tutte. Però effettivamente questa cosa succede, quindi come la vuoi gestire, con la repressione anche in quei confronti, oppure magari con un libro. È per esempio sto ragazzo che è venuto proprio al stand nostro, che stavamo a Fiuggi, cioè è venuto apposta per cercare questo libro, e per me è stata una cosa molto molto una piccola insomma. Vittoria, diciamo. Sì, comunque un atteggiamento carinissimo, insomma. Pagante. Va bene, allora facciamo così, 20 e 25, siamo sempre su Radio Pirata 38 e ci stiamo andando a preparare, perché sembra che qui il nostro amico DJ Reflux, perché Porello non è che si senta poi tanto bene. È comunque lunedì per tutti, ragazzi. Certo. A chi spegne le lampadine poi gli viene reflux. E niente, a questo punto andiamo a deliziare le vostre orecchie con possiamo un po' di concludere musica, dicendo popoli muti, cioè, come si dice, muri puliti, popoli muti. E vabbè, sì, abbiamo, lunedì per tutti, abbiamo detto lunedì per tutti, fare però dati fa voce, sempre regà, bene. Madonna, che voce che c'ha. Ma te perché non lo senti in cuffia poi? Io c'ho la cuffia. Doppiava i porno ungheresi. Sì, ho sentito l'altra volta. Mo vediamo se lo ritrovo. Roba solo di alta qualità, però. Va bene, a questo punto, dopo le grandi cazzate che diciamo, 20 e 26, siamo sempre su Radio Pirata 38. Se ci volete scrivere, avete il nostro WhatsApp 351 09 13 390. e vediamo se sto DJ Reflux ci fa sculettà un pochetto, va? Dai, regà. Thank you. E allora, eccoci qui, 20 e 34, Radio Pirata 38, 351-09-13-390. Andiamo a continuare questa magnifica chiacchierata e presentazione di Momo Edizioni. E andiamo a presentare un... Ma sento solo io la musica, lo sentite pure voi? Allora, io la sento... Io in realtà la sento un pochino in cuffia, un pochino in cassa, ma lievemente in cuffia. Però, a parte questo, abbiamo una cassa qui che gli manna a sto DJ Reflux, la spegnitore delle lampadine, noto spegnitore delle lampadine, che ci sta a disturbare un pochetto, ma mo la faremo. Se rimettiamo la cuffia. Dai, ecco allora, qua. Allora, che famo? Che presentiamo? Abbiamo... Questo è uscito, cioè esce domani. Quindi abbiamo un'anteprima in diretta. Un'anteprima in diretta. E qua avremo il podcast mondiale. Avremo la prova intergalattica. Tutti noi ve la stanno invidiare, calcolo sta cosa. Cioè, ci hanno chiesto varie radio, varie cose. Invece, no, lo veniamo a presentare qui. E questo uscita che è una sorta di... sembra una settimana ritmistica a vederla, vista l'estate incombente, esatto. Per chi va in spiaggia, abbiamo pensato a una specie di rivista di piccolissima, da 24 pagine, da portarsi insomma in vacanza, per chi ci va, ma anche per chi non ci va, per portarsi non so alle poste quando fai la fila o sull'autobus, esatto, sulla metro, ma anche dentro casa sul divano mentre stai sudando. Ed è un praticamente un insieme, un libro gioco, non neanche un libro, è una rivista gioco, quindi dentro ci stanno diciamo che sembrerebbe la settimana enigmistica a vederla, sembra quello. Il taglio è quello, il nome di questa rivistina è Tempo di Cazzeggio. Oh. È un po' in controtendenza, perché come dire, può sembrare come che siamo proprio dei cazzeggiatori, però ci sembrava, in realtà c'è anche qualcosa di serio dietro, un pochino, cioè un po' che intanto giocando si possono, cazzeggiando si possono trovare un sacco di cose, imparare un sacco di cose, dall'altra che forse un po' tutti si prendono un po' troppo seriamente ultimamente, sia sui social, sia nei libri, sia insomma nella comunicazione, tutti pare che insomma c'è questo tipo di comunicazione dove bisogna sempre esprimere in maniera assoluta il proprio pensiero continuamente, e tutti si prendono molto seriamente, però poi alla fine non ne esce fuori quasi niente, mentre forse approfondire può essere un po' più utile, oppure anche ogni tanto, per prendersi con la giusta serietà, anche cazzeggiarci sopra, insomma, a se stessi, alle cose che si fanno. E quindi noi, dopo aver fatto nell'ultimo mese praticamente quattro titoli, negli ultimi due mesi quattro titoli, di cui due saggi molto impegnati, abbiamo pensato, beh, bisogna un attimo riabbassare la fiamma qua, bisogna un attimo ritornare al cazzeggio. E in questa rivista ci abbiamo messo quindi dei cruciverba, abbiamo coinvolto tutti i nostri autori, cioè non tutti ma alcuni, abbiamo messo una sorta di poesia su un tormentone, dei giochi di intrecci di parole, falso ma vero, che è un modo insomma di giocare sulla filosofia, quella da Giulio Armeni. C'è una parte curata da due biologi marini, che è un po' più seria ma è per ragazzi, e quindi sono dei consigli di cose che si possono fare sotto l'ombrellone quando si va al mare, nei posti appunto di mare, anche come avere rispetto per esempio dei posti in cui si va, come però imparare anche delle cose stando in spiaggia. E ci sono anche qui dei giochetti, e poi ci sono delle parti dei disegni da colorare, c'è un racconto a tema diciamo astrologico, quindi astrofisico, e poi astrologico era, infatti era molto... un'altra cosa, mi sono sbagliato, ma mi menano le astrofisiche, sì, sì. Mi gonfiano proprio. E poi insomma ci sono due pezzi, uno mio, uno di Gianmarco Megozzi, e delle altre giochetti insomma sul finale. E non meno importante, c'è un muro diciamo così virtuale su cui scrivere, a proposito di quello che diciamo a proposito prima. Esatto. E infine c'è sull'ultima pagina, ma non meno importante, si chiama labirinto. Un bellissimo labirinto, diciamo sul tema zapatista, che è poi uno dei temi che affronterete insomma a fine puntata. Io, se volete, vi posso leggere la mia parte. Leggiamo un pezzo, vai. Un pezzetto, se la ritrovo, che è un breve manuale per un sano cazzeggio. Oh. questo ci finalmente il saggio che ci interessava. E alla fine ovviamente ci sono anche dei consigli. Cazzeggiare può sembrare cosa facile e automatica, ma non lo è sempre. Per noi precari e precarie, in realtà a volte cazzeggiare può essere un lusso, così ci ritagliamo momenti di cazzeggio anche tra una cosa e l'altra. Cazzeggiare è fondamentale, aiuta, scarica, rilassa, stimola la creatività. Cazzeggiare è un'attività dove si dà la possibilità di serendipità, ovvero cazzeggiando talvolta si fanno scoperte inaspettate. Chi non cazzeggia mai rischia cose brutte, la depressione, l'ottusità, la tristezza e fondamentalmente si rompe una cifra il cazzo, in senso figurato. Per i ricchi cazzeggiare è più semplice, in generale loro sono più spensierati, non hanno il problema di dover correre da una parte all'altra per svoltare la giornata, tantomeno hanno il problema di spendere, ma a lungo andare il loro cazzeggio diventa una routine e li annoia, perché cazzeggiare non è semplicemente il tentativo di divertirsi, ma qualcosa di più. Accade di cazzeggiare inaspettatamente quando si sta sdraiati su un divano con qualche amico e magari in televisione qualcuno a un certo punto dice: se la diarrea ti sorprende, sorprendila con Imodium. E nel silenzio annoiato qualcuno risponde: ma se la diarrea ti sorprende già ti sei cagato sotto, con Imodium che ce fai? A quel punto, oltre alla risata, magari inizia un gioco, così inconsapevolmente tutti insieme si comincia a commentare ogni pubblicità scherzosamente e ne esce fuori un gioco spontaneo e spassoso. E chi ci dice che un giorno tutte queste cazzate non possono diventare delle controcampagne pubblicitarie o dei meme? O anche niente, chi se ne frega? Il cazzeggio è disinteressato dalla produttività. Può accadere di cazzeggiare anche durante il lavoro, magari caricando un camion per un trasloco, tra chi si passa gli scatoloni, oppure dentro un ufficio guardando di straforo dei video YouTube. Ecco qualche consiglio per un cazzeggio volto a portare benessere a chi lo pratica. 1. Stai incazzato nero. Ti sei fatto ore di traffico, non hai una lira, hai passato 2 ore alla posta per pagare una multa o altre cose della quotidianità infame che ci regala questa città. Trova il modo di cazzeggiare. Lo puoi fare nel traffico, alla posta o subito dopo per scaricarti. Come? Se ti dico come fare, poi non è più cazzeggio, è una cosa seria. 2. Sei stanco. Prima di riposarti è consigliato il cazzeggio, perché anche riposarsi è fare qualcosa, è fare una cosa. Adesso devo riposarmi, allora vado a fare questa cosa di riposarmi. Ok, ma prima prenditi qualche minuto per cazzeggiare, per scaricarti, vedrai che ti riposerai meglio. 3. Ti annoia una festa. E che te lo dico a fare? Se ti annoia una festa devi necessariamente buttarla in caciara, amico mio. Trova il modo di cazzeggiare con qualcuno e ti seguirà. Infine vogliamo regalarvi un esercizio di cazzeggio, un gioco fatto per cazzeggiare insieme, inventato in Sabina e che negli anni abbiamo diffuso, il gioco del preferisci. Come funziona? Si tratta di chiedere a una persona se preferisce fare una cosa oppure l'altra, se preferisce trovarsi a dover scegliere per qualcosa o per qualcos'altro, ovviamente spaziando nella maniera più possibile e assurda. Ad esempio, preferisci essere cosparso di brufoli in tutto il corpo per tutta la vita? Brufoli pieni di pus e dolorosi, ma tutto sommato puoi condurre una vita normale? Oppure andare al bagno a fare la cacca ogni 10 minuti, anche di notte, sempre, tutta la vita? Chiariamo alcune regole fondamentali. Chi riceve un preferisci non può inventare una terza via, deve rispondere a un'opzione o all'altra, e basta. Questo esercizio stimola la creatività e mette le persone di fronte a scelte esistenziali che ne rivelano la vera natura. Quello che avete letto qui sopra è un solo un assaggio, ma esistono preferisci molto seri, su questo non esistono limiti. In chiusura ci tengo però a specificare una cosa. Cazzeggiare non deve per forza voler dire fare qualcosa. Cazzeggiare può anche voler dire non fare niente. Ogni tanto non fare niente sembra che faccia bene. Ma la domanda è: se mi prefisso di non fare niente, in quel momento non sto facendo niente o sto comunque facendo qualcosa? Wow, Nietzsche risponde. Wow. Direi che questa è la rivista che mi voglio leggere quando vado in spiaggia a questo punto, almeno così da risollevare il morale. Anche perché il tempo. Io la consiglio per il bagno, in effetti. Il bagno. Sì, bagno, poi c'è una foto che a me fa impazzire, che penso sia un meme tratto da internet, su Greta Thunberg. Sì, questo. Che recita: fa caldo, mortacci vostra. Mortacci vostra, giustamente. Che è un meme bellissimo, perché prende per il culo sia la tematica giusta che Greta Thunberg ha portato, ma prende anche per il culo la stessa Greta Thunberg. Che anche quello non ce lo scortiamo, visto che siamo una radio dei compagni, lo possiamo dire. Corretto, e quindi allora facciamo una cosa. Qua Mom Edizioni a tempo di cazzeggio, agosto 2021, soli 3 euro. Dagli regà, dov'è che possiamo trovare Momo? Allora, Momo la potete trovare in tutte le librerie, sia quelle diciamo indipendenti sia quelle di catena, perché siamo distribuiti. La potete trovare principalmente sul sito momoedizioni.it. Oh. E ultimamente abbiamo deciso che se vi comprate due libri vi regaliamo anche questa rivista di cui abbiamo parlato adesso, altrimenti la potete comprare da sola a 3 euro insomma. Altrimenti ci trovate i nostri eventi, i nostri banchetti, sui social trovate tutti gli aggiornamenti, quindi Facebook, Instagram, Twitter, e ci abbiamo il sito momoedizioni.it, quindi che ne so, se volete andiamo sul sito e vediamo un attimino quello che possiamo trovare per le bimbe, per i bimbi, ma anche per noi stessi, perché in realtà possiamo trovare un sacco di roba interessante. E prossimi appuntamenti, Momo, che succede? Allora, prossimi appuntamenti, abbiamo varie presentazioni adesso durante l'estate, e c'è un appuntamento fondamentale che è la festa di Momo. Quest'anno torniamo dopo tutte queste polemiche di cui abbiamo parlato, facciamo una nuova festa di 2 giorni al centro sociale La Torre. Siete tutti e tutte invitate. Faremo 2 giorni di laboratori, tra cui un laboratorio dove appunto insieme ai bambini andremo a scrivere su un muro, e poi ci saranno insomma i nostri amici scienziati e biologi, ci saranno i nostri vari autori che faranno tanti laboratori, faremo delle passeggiate lì nella tenuta insomma del Parco d'Aguzzano, e che altro insomma. Il programma sarà svelato a breve, però fondamentale che ci siate tutti per festeggiare. Ovviamente è tutto gratuito, per cui non ci sono scuse. Perfetto, perfetto, perfetto. Ringraziamo Mattia per questo appuntamento, quindi rimandiamo a settembre. Le date già sono... ci saranno a breve? 18-19 settembre, perfetto. Stavo a scordare, infatti. Perfetto. 18-19 settembre. Momo Edizioni, andate sul loro sito, continuate a informarmi, seguiteli veramente, supportateli perché fanno un grandissimo lavoro. Grazie, grazie a questa radio fantastica che ci ha ospitato, a Maurizietto e a Marco e Zecco, a Mario, insomma, Red, a tutti voi, Martina, insomma, perché comunque oggi ci siamo, io mi sono divertito un sacco. Abbiamo anche cazzeggiato, perché ricordiamolo, l'ozio è un diritto, ragazzi, ragazzi. Ma noi ringraziamo comunque te, Mattia, per questa... è anche un dovere. Gradevolissima presenza, e spero che potrai tornare altre volte qualora volessimo decidere di continuare a portare avanti questa bella esperienza. C'è sta pure l'aria condizionata, quindi insomma. Infatti, sì, io sabato abbiamo montato questo magnifico condizionatore, anzi fatemi chiudere la finestra perché almeno stiamo un attimino meglio. E a questo punto alle 20:46 vediamo se DJ Reflux se ci faccio un pan pochetto, ritorniamo in musica e poi ci sentiamo tra poco. rieccoci qui, 20:52, Radio Pirata 38. Torniamo in voce per andare a parlare di quelli che sono gli aggiornamenti relativi alla Chiesa Zapatista, che appunto è la quinta, è il quinto lunedì consecutivo, cioè, di cui il quinto lunedì di attesa. E come dicevamo l'altra volta, siamo in attesa che tutta la delegazione aerea della Forza Aerea Zapatista abbia i passaporti da parte dello Stato messicano. Attualmente mancano una sessantina di persone che non hanno ancora il documento necessario per venire in Europa. E non solo, perché oltre a questo, a queste problematiche imposte dalla burocrazia messicana, c'è anche il pericolo che il governo francese, visto che sappiamo che la delegazione arriverà a Parigi, che il governo francese ponga dei problemi all'ingresso dei compagni e delle compagne sul continente europeo. Come dicevamo la settimana scorsa, era stata indetta una settimana di mobilitazioni sotto i consolati e sotto le ambasciate francesi, e anche qui a Roma ci si è mobilitati sotto l'ambasciata a Piazza Farnese, dove ovviamente le forze di repressione non hanno mancato di farsi vedere, di prendere i documenti a tutti coloro e tutte coloro che erano in piazza, proprio per far capire qual è il clima. Un'azione dimostrativa, ovviamente, con le bandiere delle diciamo, CDLN, sono arrivate là, un'azione dimostrativa, una di persone, se non di che poco, voleva di solo appunto manifestare la loro, il loro appoggio al viaggio zapatista, aprire uno striscione di beh, fronte in un paese, in un paese niente, nulla di più liberal democratico come l'Italia, sarebbe il minimo necessario, comunque quello di poter manifestare in maniera pacifica, perché poi parliamo di qualche decina di persone che hanno srotolato uno striscione, hanno portato le bandiere del ZLN e chiedevano sostanzialmente al governo francese di la libertà di movimento. Queste quindi, però, nonostante tutto l'azione è riuscita, siamo riusciti a far sentire la nostra voce. Questa ovviamente, questa era la prima, una delle serie di azioni che stanno in cantiere. Ce ne sono altre di più incisive che vogliono stanno cercando di aggirare i blocchi imposti dalla Fortezza Europa, cercando di invitare direttamente gli zapatisti, coinvolgendo tutti coloro e tutti coloro che sono in grado. Quindi potremmo lanciare un appello da questa radio ai compagni e le compagne che stanno all'interno delle istituzioni, soprattutto scuole, università, a dare una mano a sostenere la gira, invitando gli zapatisti a venire in Europa. Quindi c'è questa tematica di lasciateli partire, lasciateli arrivare. Esatto, esattamente. Quindi attualmente si sta cercando di portare avanti di raggiungere questo obiettivo, in modo tale che la delegazione sia qui ad agosto. Il 13 a Madrid è annunciata la prima iniziativa europea perché il 13 agosto di 500 anni fa Cortés completava la conquista del Messico, e quindi simbolicamente gli zapatisti il 13 occuperanno la Spagna nella loro invasione pacifica dell'Europa. Quindi questo insomma sono gli appuntamenti. E niente, quindi rimanete sempre attivi, attivi, attenti a quello che sta succedendo, perché magari, non lo so, ci si potrà pure ritrovare, rincontrare queste persone che dall'altra parte dell'oceano sono venute qui a scoprire le lotte dei territori ribelli in resistenza, che da quest'altra parte appunto a proposito di territori in resistenza, cogliamo l'occasione di ricordare che domani si concluderà il primo campeggio LOTAV, era post pandemica, e che sarebbe il nono, che sarebbe il nono campeggio LOTAV, e che si concluderà nel weekend del 30, 31 e 1 agosto, 1 agosto, il weekend ad alta felicità. Corretto. Che era, per chi si ricordava, è stato in valle, era il Festival dell'Alta Felicità, quest'anno in edizione diciamo post pandemica, però non mancheranno iniziative, concerti e modalità, e anche azioni e dibattiti, chi più ne ha più ne mette. Invitiamo quindi tutte e tutte a salire. Corretto. E per chi volesse, per esempio su Facebook può cercare il Festival Alta Felicità, c'è un interessante comunicato che va a presentare e a lanciare queste tre giornate di festival che si terranno a Venaus, l'intorno. E quindi rimanete un attimino qua, anche attenti, chi può partire partisse, perché è un'esperienza sicuramente molto interessanti, una lotta che è veramente ormai ultra decennale, è un'esperienza anche per chi vuole vedere veramente cosa esiste in basso al di là del sistema, quindi altri modi di stare insieme, altri modi di condividere la vita, cioè la socialità e lo stare insieme. Quindi vi invitiamo veramente, a chi può, a partecipare, perché è veramente un'esperienza che almeno una volta va fatta. E allora, alle 20:58 di questo lunedì 26 di luglio 2021 andiamo a vedere. E possiamo lasciarci, visto che è il 26 di luglio, che ricordando l'assalto al Moncada dei compagni e delle compagne cubane guidati da Fidel Castro, che il 16 luglio del 1953 assaltarono la caserma di Santiago, quartel Moncada, fallendo e venendo arrestati, ma dando il via al corso che poi porterà 6 anni dopo alla conquista da parte dei compagni e compagni del potere sull'isola caraibica, e iniziare uno degli esperimenti di socialismo reale che oggi continua dopo il crollo del muro di Berlino. Dopo questa tua introduzione devi assolutamente, questi ultimi 2 minuti, cantare. Dobbiamo cantare l'inno cubano, dobbiamo cantare l'inno del movimento del 26 di luglio, per caso. No, luglio, sì. Direi che è bellissimo, andatevelo a cercare su YouTube, io ve lo consiglio, anche è fomentatissimo. Visto Social Club, tanto sì, esatto, tanto allora, conosciamo lo spagnolo, quindi un po' di rum e via. E allora, grazie a tutti e a tutti per essere stati qui con noi anche questo lunedì 26 di luglio 2021. Andremo a vedere di lanciarvi qualche altra informazione rispetto alle varie ed eventuali nuove trasmissioni delle prossime settimane. Per adesso vi andiamo a dare un grande abbraccio e vi andiamo a ringraziare un sacco per averci sostenuto durante queste 5 settimane che abbiamo qui, e vi lasciamo direttamente con l'ultima traccia, con DJ Reflux, che ci farà sculettare un pochino. Un saluto e a presto.